Garibaldi fu ferito ad una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1862, il censimento procede rapidamente in Italia, siamo 22 milioni. La fotografia è quasi pronta, a tempo di record e a costi tutto sommato contenuti, visto che il bilancio dello Stato deve sopportare ben altri aggravi, primo tra tutti il costo per l'esercito al sud. Il primo censimento nazionale dell'Italia Unita è stato indetto un anno fa, l'8 settembre 1861, assumendo come giorno ufficiale la notte tra il 31 dicembre 1861 e il 1 gennaio 1862. Un anno dopo il lavoro è ben avviato e il ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio Gioacchino Napoleone Pepoli, noto nobiluomo bolognese reduce dal via libera alla lira, può anticipare al Gazzettino del Risorgimento un risultato che in questi mesi difficili per il governo porta un po' di respiro all'esecutivo dopo le dure polemiche politiche. Ma ascoltiamo l'intervista con il ministro. Stiamo realizzando l'opera in un tempo molto contenuto. Basti dire che nel giro di 3 mesi abbiamo portato a termine la fase di preparazione e che alla fine di gennaio di questo 1862, cioè appena un mese dopo la data stabilita, cioè già 4 comuni, Forlì, Milano, Piazza Armerina e Scarperia, erano stati in grado di consegnare all'amministrazione le sintesi complete dei dati raccolti. Entro l'inizio dell'anno prossimo presenteremo al re i primi risultati. La Francia, che è partita praticamente nello stesso periodo per il suo censimento e però ha un'amministrazione molto più robusta e non nuova come la nostra, diciamo che è indietro. Belgio e Inghilterra invece ci hanno messo tutto circa 5 anni. In totale qual è stata la spesa per lo Stato? Dunque, la spesa totale dovrebbe aggirarsi intorno alle 640.000 lire, di cui 300.000 nel bilancio del 1861 e 240 in quello del 1862, più 100.000 a titolo straordinario. Ci può regalare qualche anticipazione, per esempio, alla popolazione? Parlare di dati a questo punto, diciamo che non si dovrebbe, perché le cifre sono assolutamente non ufficiali. Diciamo che il totale ammonta intorno ai 22 milioni di abitanti. Se però contiamo la popolazione delle province, quelle non ancora liberate, come quelle del Lazio e del Veneto in particolare, superiamo allora i 27 milioni. E per le professioni, visto che questo è anche la competenza principale del suo dicastero? Guardi, io mi fermo a un dato, il 70% della popolazione è impiegata nell'agricoltura, ma ora davvero la prego, basta. Di altro sarebbe veramente una scorrettezza nei confronti del Parlamento e di Sua Maestà il Re. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.